perché è stato chiesto a Rosy Mauro di dimettersi dalla vicepresidenza del Senato? Perché... Beh, mi sembra che se il signore avesse letto i giornali, l'avrebbe letto sui giornali, perché nel momento in cui un personaggio politico di quella caratura entra in una bufera di quel tipo, nel quale il suo nome viene ripetutamente richiamato per fatti che, al di là del fatto che siano oggettivamente possibili reati, sono sicuramente poco commendevoli, si ritiene, per una questione di trasparenza anche all'interno di un'istituzione, prima ancora di un partito, che si debba dimettere. Sì, vede, qui effettivamente c'è un po' il paradosso. Me, no, mi lasci dire una cosa. A me è successa una situazione assolutamente analoga nello scorso mese di settembre, quando io ho assunto un atteggiamento che andava in contrasto con la linea del mio partito, e il mio partito mi disse: o fai un passo indietro o sei fuori dal partito. È vero. Io ho fatto il passo indietro, non sono stato messo. No, ma in questo partito. Volevo darle, se vuol dire, se voglio, manforte, poi dopo, se no mi dicono che critico troppo la Lega. È paradossale adesso, Fontana, lei deve stare a giustificarsi del fatto che è uscita un'inchiesta e quindi il partito ha detto: no, no, vogliamo fare pulizia, dimettiti, che è la richiesta che tutti i cittadini fanno quando ci sono le inchieste, e adesso lei deve stare a giustificare come mai il partito ha chiesto di fare un passo indietro a una persona che è citata in un'inchiesta. Funziona un po' a volte così questo paese.